star. I'm the fool, 사랑 더 기니 과자샤 딜라 미야 Death star. El Marcello 단지 스티븐 가볼텔로 Black rock don't stop. Dammi shot di scotch. Importo pot dalla coppa e manda fuck il cop. Ti devo un tot, io forgot. Giungi un altro stock. Non riesco a credere nel god, ma in Columbia doc. Oh, diverse piante nella box grow. Facciamo fitte nebbie irte tempo rap soul. Chiedi one more plata soul, fucking asshole. La gente in strada fuma il bong, condoglianza al don. Do you like in the web wide Italian side? Sorseggio Jack, Coca Light, Lecco King side. Con doppio malte, no der light, plate fox crime. La mia muciaccia 69, better good time. Ti piace come fotto il mic, poco tech and line. Tocchi i miei soci, prendi colpi tipo tech and fight. Guai, frego la scheda sulle white stripes. Subit coglione cazzo fai, manco tu lo sai. Ci sta dentro, eh. Le mie famiglie qui ti tagliano viveri. Scissi polimeri, siamo chimici, mischi bocce e fiammiferi. Vogliono uccidermi, sostanze seccano testicoli. Riempono articoli senza più vincoli. Droga in cunicoli, vi porto gli incubi. Sfregiami con il bisturi, riesci a sentirne i sintomi e senti de plata history. Con strane indoli, polveri con gli intingoli. Do provenienza agli inferi, cazzi dentro agli sfinteri. Sentilo adesso come pompa sul funk. Il kick, lo snar, little open. At. Si ritorna con la vecchia scuola, l'instrumental bass, boom clap, basso slap, chi la porta al rap, te lo riporta come quello di una volta, senza troppe pagliacciate per le orecchie di chi ascolta. Faccio storie drug dealing, dentro i giardini, fuori dai locali, lascio genti coi sorrisi, passata un'ora li ritrovo ma non vedo i visi, scarpe vomitate, paralizzate sui gradini, vogliono fare i divi, parlare dei miei amici, faresti meglio a pensare a quello che dici. Stupid motherfucker wanna fuck with me, fuck with me. Ancora non hai capito con chi stai scherzando. Tu stati calmo, siediti al banco e paga già da bere che stiamo arrivando. Con tutto il branco non me ne fotte un cazzo da quanto lo fai. In quale merda di classifica al posto che stai? Di quanti cazzo di contest hai vinto di freestyle? Io in mezzo alla strada, voi ricchioni non vi ci ho visto mai. Oh però magari Saro ci fai un gioco mica con la batteria. Dai, qualche basso potente, qualche bridge così. Quanto sono convinto per fumare la mia? Cioè, tipo intelligente, quello sacchetto lì, tipo un pezzo un po' più di un poso, che va come drum and bass, no? Cioè, sono in quello sacchetto lì, capito? Poi bisogna dire che sto beat lento, fa capire. Sta schitarrata, ma